Le creature personali. L'uomo. Nella trattazione dell'inizio della Genesi si è messa in evidenza l'importanza della creazione dell'uomo ad immagine e somiglianza di Dio, come presentata nella narrazione sacerdotale, P. In particolare, all'importanza decisiva del momento possono essere collegati il plurale nel verbo facciamo e la specificazione nostra immagine, insieme alle tre ripetizioni del verbo creare in Genesi 1:27, così come il molto buono in Genesi 1:31. Secondo Giovanni Paolo II, come detto, questi elementi sarebbero indicativi di quel particolare rivolgersi a se stesso ad intra di Dio che crea. Tutto ciò rivela la singolarità dell'uomo rispetto agli altri esseri la cui creazione era stata precedentemente narrata nel testo. Questa unicità consiste nel fatto che l'uomo, in quanto immagine di Dio, è persona. Su ciò si fonda il suo valore, legato alla libertà e quindi al suo intelletto e alla sua volontà, che ne fanno un essere chiamato alla comunione con Dio e con i propri simili. L'unità più profonda alla quale aspira l'uomo, quell'unità che in qualche modo porta iscritta nel suo cuore, non è la mera unità della pietra e delle altre realtà semplicemente materiali, ma è la comunione personale verso la quale l'immagine impressa dal Creatore uno e trino costantemente lo attira. Ma per una piena comprensione della creatura umana e della sua unicità è fondamentale anche la seconda narrazione, Ilung, della quale Giovanni Paolo II diceva: la descrizione più antica, la Yavista di Genesi 2, non usa l'espressione immagine di Dio. Questa appartiene esclusivamente al testo posteriore, che è più teologico. Ciò non di meno, la descrizione Yavista presenta, anche se in modo indiretto, la stessa verità. È detto, infatti, che l'uomo, creato da Dio Yahvé, mentre ha potere di imporre il nome agli animali, non trova tra tutte le creature del mondo visibile un aiuto che gli fosse simile, e cioè constata la sua singolarità. Benché non parli direttamente dell'immagine di Dio, il racconto di Genesi 2 ne presenta alcuni elementi essenziali: la capacità di autoconoscersi, l'esperienza del proprio essere nel mondo, il bisogno di riempire la propria solitudine, la dipendenza da Dio. 9 aprile 1986. In questa narrazione più primitiva, l'uomo è descritto come terra che Dio solleva e porta alla bocca per infondere in essa il suo spirito. Genesi 2:7. L'uomo nasce come terra baciata da Dio, attraversata dalla parola e dallo spirito che sgorgano dalla sua intimità. Joseph Ratzinger osserva che la scoperta di essere tratto dalla terra umilia l'uomo, perché lo mette di fronte in modo inequivocabile al fatto di non essere Dio. Ma nello stesso tempo questa rivelazione lo consola, perché dice che l'uomo non è uno spirito cattivo, che il male che ritrova in se stesso non è originario, in quanto egli è opera di Dio. Consola anche la constatazione che ciò sia valido per ogni uomo: tutti sono polvere, assolutamente tutti, in modo tale che non c'è più spazio per giustificare il razzismo radicalmente condannato, Genesi 10, né per il sospetto di essere inferiori rispetto a qualche modello in apparenza perfetto, magari proposto nel contesto sociale in cui ci si muove. La creazione a immagine e somiglianza di Dio in Genesi 1:26 indica anche che nell'uomo, nel suo cuore, si toccano il cielo e la terra. In lui, nella sua libertà e nella sua coscienza, Dio entra nella creazione. La storia e la vita di ogni persona sono luogo della manifestazione di Dio, sono teofaniche, come il roveto o la montagna dove Mosè incontrava Yahvé. Ogni uomo è riconosciuto e amato da Dio, ogni uomo è da lui voluto. Si fonda così l'inviolabilità della dignità umana, conseguenza della dimensione trinitaria della creazione. L'essenza dell'immagine è rappresentare qualcosa, rimandare a qualcosa d'altro, essere in relazione a un senso ulteriore. La sua realtà non è quindi semplicemente ciò che essa è in sé. Così l'uomo, ogni volta che si chiude in se stesso, si tradisce. L'uomo è pienamente se stesso solo quando esce da sé, quando dà del tu a Dio. Diversamente dall'animale, l'uomo ha il proprio senso nel dono e nella relazione. In quanto immagine del suo creatore, unico Dio in tre persone, l'uomo non può essere se stesso da solo. Così, nell'unità e nella corrispondenza tra Antico e Nuovo Testamento, si ha accesso in Cristo alla piena verità sull'uomo, nuovo Adamo, e lui l'uomo definitivo. Ed ogni uomo è chiamato a diventare una sola cosa con Cristo e quindi con Dio. Il primo Adamo è orientato al secondo e può essere pienamente se stesso solo nell'incontro e nell'unione con Lui. Qui sta anche il fondamento dell'apostolato. Annunciare Cristo nel proprio ambiente non è una mera esigenza morale legata al bisogno di fare proseliti o di salvare da qualche imperfezione coloro con i quali si convive. Si tratta invece di rispondere al desiderio più intimo di ogni uomo di essere se stesso. Ogni cristiano è dunque chiamato ad aiutare le persone attorno a sé ad essere se stesse, in un certo senso a nascere. L'apostolato è così legato alla paternità e alla maternità spirituali iscritte dall'immagine divina nel cuore di ogni uomo. Nello stesso tempo, l'orientamento di ogni uomo a Cristo rivela che la perfezione umana non consiste in un modello astratto, un elenco di virtù disincarnate, ma che essa passa attraverso la pienezza della propria umanità, vissuta e assunta totalmente grazie al rapporto con colui che è il vero uomo. Da qui deriva anche il valore divino dell'umano e il ruolo delle virtù anche naturali e del gusto e dell'interesse per tutto ciò che è autenticamente nobile nel mondo. L'uomo è dunque un essere in cammino. Essere uomini vuol dire diventare uomini in una sorta di esodo continuo all'incontro del Cristo. La radice stessa del termine, che indica l'ebreo ivrit, indica l'attraversare, il muoversi verso una meta che è oltre. Così, da Adamo ai re magi, passando per il popolo nel deserto, il primo Adamo tende sempre al secondo, a Cristo, che significativamente attraversa il torrente Cedron, Giovanni 18:1, e si immerge nell'oscurità della morte per portare ogni uomo nel seno del Padre. Il mistero pasquale è così inserito nel cuore della creazione stessa. L'incarnazione svela il vero disegno di Dio, perché solo Cristo, immagine perfetta del Padre, può ricostituire l'immagine divina offuscata nell'uomo dal peccato originale. Molteplici sono le testimonianze patristiche. Ad esempio, dice Ireneo, nei tempi antichi, infatti, si diceva che l'uomo era stato fatto ad immagine di Dio, ma questo non era evidente, perché il Verbo, ad immagine del quale era stato fatto l'uomo, era ancora invisibile. D'altra parte, è per questo motivo che la somiglianza si era facilmente perduta. Ma quando il Verbo si fece carne, confermò l'una e l'altra, rese visibile l'immagine in tutta la sua verità, divenendo lui stesso ciò che era la sua immagine, e ristabilì la somiglianza in maniera definitiva, rendendo l'uomo simile pienamente al Dio invisibile, per mezzo del Verbo ormai visibile. Adversus Hereses, V, 16:2. Questa dottrina è stata specialmente sottolineata nel Concilio Vaticano II, in particolare nella Gaudium et Spes. In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro, e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. Gaudium et Spes 22. Tutto il magistero di Giovanni Paolo II si fonda su questa teologia, come dimostrano l'enciclica programmatica Redemptor Hominis e numerosissime affermazioni della sua predicazione. L'uomo è incapace di comprendere se stesso fino in fondo senza Cristo. Non si può capire né chi è, né quale sia la sua vera dignità, né quale sia la sua vocazione, né il suo destino finale. Non si può capire tutto ciò senza il Cristo. E perciò non si può escludere Cristo dalla storia dell'uomo in qualsiasi parte del globo e su qualsiasi latitudine e longitudine geografica. L'esclusione di Cristo dalla storia dell'uomo è un atto contro l'uomo. Allocuzione a Varsavia, 2 giugno 1979. Ciò spiega perché l'uomo è un essere in tensione, chiamato alla trascendenza, corpo caduco e spirito infinito, con un desiderio immenso di amare ed essere eterno, ma incapace di realizzarlo. L'uomo è un essere finito in tensione verso l'infinito, un essere il cui senso è l'infinito, perché è creato dall'amore di Dio ed è destinato a questo stesso amore. Ciò deriva dal fatto che l'uomo è essenzialmente figlio, poiché il Creatore è il Padre e il senso del mondo è il Cristo. La tensione sperimentata dal cuore dell'uomo non è dunque altro che espressione della relazione fondante con il Creatore, uno e trino. L'uomo si può comprendere solo alla luce di quell'intelletto e volontà che sono costitutivi dell'immagine e rimandano all'intimità divina. Infatti l'uomo, grazie alla natura spirituale e alla capacità di conoscenza intellettuale e di libertà di scelta e di azione, si trova fin da principio in una particolare relazione con Dio. La descrizione della creazione, Genesi 1:3, ci permette di constatare che l'immagine di Dio si manifesta soprattutto nella relazione dell'io umano con il tu divino. L'uomo conosce Dio e il suo cuore e la sua volontà sono capaci di unirsi con Dio. Homo est capax Dei. L'uomo può dire sì a Dio, ma anche dirgli no. La capacità di accogliere Dio e la sua santa volontà, ma anche la capacità di opporsi ad essa. L'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà. La dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere. Nella sua interiorità egli trascende l'universo. In quelle profondità egli torna quando si rivolge al cuore, là dove lo aspetta Dio, che scruta i cuori, là dove sotto lo sguardo di Dio egli decide del suo destino. La vera libertà è nell'uomo segno altissimo dell'immagine divina. Gaudium et Spes 17:14-17. La vera libertà è la libertà nella verità, iscritta da principio nella realtà dell'immagine divina. 23 aprile 1986. L'uomo è fatto per dialogare con Dio, che lo chiama all'essere e lo benedice. Genesi 1, 28-30 e 2, 16-17. Affidandogli il dominio sulla creazione. Genesi 2,19, Siracide 17,1-12. E ciò vale per tutta la natura umana, perché l'immagine è trasmessa da Adamo ai suoi discendenti. Genesi 5,1-3. Questa immagine è il fondamento delle relazioni morali con il prossimo. Genesi 9,6 e Giacomo 3,19. E include un certo diritto all'immortalità. Sapienza 2,23. La cui origine è chiara alla luce della dimensione filiale trinitaria. Da qui discende anche l'alto valore dell'orazione, che nel dialogo con il tu divino rende sempre più umani, come figli nel figlio. E l'uomo non solo parla con Dio, ma scopre anche di essere parola di Dio. L'uomo è chiamato a diventare, tra le creature del mondo visibile, un portavoce della gloria di Dio e, in un certo senso, una parola della sua gloria. Giovanni Paolo II, 9 aprile 1986.